Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Cucinare è un grande atto d'amore, di generosità, ed è forse per questo che la cucina è il posto dove lo stato d'animo cambia, e negli ultimi anni le ricerche hanno confermato il fatto che cucinare è uno strumento terapeutico, aiuta. Questo è quello che succede anche a Rob de Mat, che in milanese significa roba da matti, un ristorante dove in cucina, al bar e un po' ovunque ci sono persone che hanno storie alle spalle spesso molto diverse da quelle comode a cui siamo abituati. Edoardo Todeschini, sono il presidente di Rob de Mat e lo chef. Rob de Mat nasce come una PS, un'associazione per la promozione sociale, e il suo scopo è l'inserimento o il reinserimento lavorativo di persone che hanno problemi di marginalità, e lo facciamo attraverso una formazione sia in cucina che in sala, quindi sia cuochi che camerieri. Lo facciamo tramite dei tirocini che vanno dai 3 ai 6 mesi, dipende appunto qual è lo scopo del tirocinio, perché facciamo anche solo tirocini formativi. E dopo questo periodo di tempo c'è l'integrazione del personale di Rob de Mat, o comunque la persona viene diciamo presentata a una rete di soggetti interessati comunque a lavorare con queste utenze. Quante persone più o meno sono passate da Rob de Mat? Allora, noi abbiamo aperto nell'aprile 2017, in questi 3 anni abbiamo fatto 55 tirocini. Si può dire che adesso assunti siamo in 16, di questi 16 persone un terzo viene dai reinserimenti lavorativi attuati qua, e un'altra decina di persone hanno trovato comunque lavoro al di fuori di Rob de Mat. Nel giardino pieno di sole e piante un sacco di persone sono al lavoro. Rob de Mat è un'associazione, è un ristorante, è un bar dove lavorano persone con disagio psichico, ma anche rifugiati, ex detenuti, una formula che funziona proprio perché alla base di questa storia c'è l'accoglienza della difficoltà e della diversità. Spesso storie partite molto male finiscono nel migliore dei modi, come Gabriele, che oggi è uno chef. Sono partito come tirocinio, cioè ho fatto il tirocinio qua di qualche mese, poi me l'hanno rinnovato per altri 3 mesi, poi dopo mi hanno assunto. Basta. Cioè tu venivi eri una di quelle persone che hanno iniziato a fare il tirocinio? Sì, come? Sì, facevo una storia dietro, all'inizio facevo il tirocinio, poi man mano. E adesso sei un cuoco e fai tu il tirocinio ad altri ragazzi? Sì, sì. Senti, la tua esperienza, il tuo vissuto ti serve anche per entrare in contatto con le persone che arrivano e iniziano a fare questi corsi? Beh sì, dipende dalle persone, comunque ci sono passato anche io, quindi so bene come, cosa significa iniziare da tirocinante. A te la cucina cosa ha dato all'inizio? Cioè, ti eri mai messo a cucinare prima di allora? A me è sempre piaciuto lavorare in cucina, cioè lavorare no, perché non ho mai lavorato, tranne da mio zio che aveva una gastronomia, però era diverso, però mi è sempre piaciuta la cucina, questo ambiente qua mi è sempre piaciuto. E perché? Perché la cucina? Anche perché mi piace mangiare, poi cioè, mi piace il mondo della cucina. E il clima che c'è qui com'è? Ma qua è bellissimo, siamo tutti amici, come comunque anche una volta finito di lavorare ci si aspetta che finisce anche l'altra persona, si va magari in un posto a bere, comunque siamo tutti amici, usciamo poi tutti assieme la sera, finito qua. Ma forse è questa la vera molla in più che c'è in questo posto, che si sente appena si arriva, no? C'è questo stare insieme vero. Quello sì, una famiglia. Famiglia, però quella sensazione di essere in un posto in cui tu appartieni, o lo senti, io personalmente mi sento proprio che appartengo al posto, e quindi ti cambia completamente la visione del lavoro. Non è più il posto dove vai a fare quello che ti pagano per fare, ma è quello che fai anche per la tua vita, nel senso che comunque essendo qua ti diverti lo stesso, e quindi non è più un peso, o un po' come tutti abbiamo la routine lavorativa, ecco, però qua c'è quel plus di molto ci piace di più. Ci sono dei momenti invece un po' di fatica o anche in questo periodo, per dire, di emergenza, così, che hai sentito un po'? Beh, quello sì, ma anche non solo adesso, comunque lavorare in cucina a caldo, comunque magari anche che fai delle ore in più così, comunque è stancante, però... Non so, cioè, mi piace questo lavoro, comunque, cioè, vengo ripagato lavorando qua. Al lavoro come volontari tante persone di età diverse. Ciao, tu sei? Alice. E tu lavori qui? No, io faccio la volontaria. Perché hai scelto di fare la volontaria qui a Rob de Mat? È capitato per caso che una ragazza che lavora con me mi ha chiesto di montare un video che è poi servito per la raccolta fondi di questo posto. E mi sono piaciuti e quindi poi ho chiesto se era possibile aiutarli in qualche modo e sono rimasta. Il progetto nasce per favorire l'inclusione sociale e lavorativa di chi spesso nella vita non avrebbe avuto molte chance. Mi chiamo Francesco Purpura e all'interno di Rob de Mat mi occupo principalmente del progetto sociale, cioè tutto quello che non è la ristorazione, i pranzi, il bar, eccetera, eccetera, ma che attiene i corsi di formazione, i tirocini lavorativi e i progetti che facciamo in collaborazione con le altre realtà del territorio, con enti o istituzioni nell'ambito sociale. All'epoca lavoravo con i minori stranieri non accompagnati e li portavo qua, presso la sede dell'amico Charlie, che è una Ollus che si occupa appunto di progetti con i minori, con gli adolescenti. E portavo i miei ragazzi qua a giocare a calcio, scambi di attività e così via, e sono venuto a conoscenza del fatto che c'era una parte di questa sede gestita da amico Charlie che era in quel momento non utilizzata. Quindi abbiamo proposto loro di accogliere il nostro progetto e dopo un po' di tempo abbiamo, come dire, stipulato una convenzione assieme e da lì in poi è nato lo sviluppo che ha preso vita nello spazio, diciamo. Diverse persone che attraverso un po' il percorso che hanno fatto qua hanno avuto la possibilità di dare dei cambiamenti importanti alla loro vita. Mi viene in mente una ragazza che veniva da delle esperienze brutte, diciamo, di violenza e che è venuta a Rob de Mat a fare un tirocinio e all'inizio neanche voleva avvicinare le persone, voleva stare giusto dietro il banco a lavare i bicchieri senza avere contatti con nessuno. Poi il tirocinio è andata bene, pian piano ha imparato le cose da fare e quindi c'è stato proprio un percorso di crescita da zero fino a un ruolo di responsabilità. Oppure un'altra storia per noi bella è quella di un uomo in là con gli anni, aveva vissuto tante esperienze in carcere, un continuo entrare e uscire, ed è venuto qua per fare un tirocinio in cucina e grazie al tirocinio è riuscito ad avere un appoggio abitativo perché all'epoca non aveva neanche una casa e grazie poi al tirocinio fatto qua gli abbiamo dato una mano a trovare un lavoro, quindi ha avuto un contratto non da noi ma da un'altra parte. Tramite questo contratto è riuscito ad ottenere l'assegnazione di un alloggio popolare, quindi è passato nel giro di pochi mesi da essere ex detenuto senza fissa dimora e senza un'occupazione ad avere una casa, un lavoro e una vita completamente cambiata. E lui viene ogni tanto? Sì, alcune persone, diciamo, che hanno fatto dei percorsi di tirocinio qua poi sono state assunte, quindi sono ancora parte del gruppo dello staff, altre no, ma comunque con molti rimane un contatto, ci si scrive, vengono a trovarci o andiamo a trovarli nei posti di lavoro che hanno trovato. Comunque nasce una relazione e la cosa bella è che poi va avanti oltre il periodo formale di collaborazione assieme. Ma se una persona volesse venire invece a mangiare qui, com'è che funziona? Noi diciamo sempre che Rob de Mat deve vivere di un'apparente dicotomia. Questo deve essere un posto in cui chi viene dal punto di vista della qualità di quello che mangia, che beve, dell'ambiente, non si deve accorgere di essere in un posto diverso dagli altri, e al tempo stesso dal punto di vista delle persone che vi lavorano, della tipologia di servizio che viene fatto, si deve accorgere di essere in un posto diverso. È una contraddizione e ci piace stare in questa contraddizione, per cui Questo è un posto sempre aperto, 6 giorni alla settimana, e apparentemente, diciamo, funziona come qualunque altro posto. Si chiama, si prenota, si viene a vedere se c'è un tavolo libero e si usufruisce, diciamo così, potenzialmente dei suoi servizi e delle sue attività come in qualunque altro locale o ristorante. E poi c'è un pezzo in più che a volte viene scoperto prima ed è un motivo per venire, a volte viene scoperto una volta che uno è già qua e diventa un motivo per tornare. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Siamo alla periferia di Milano, in una struttura recuperata da un'associazione. È qui che è nata Rob the Mat. Edoardo Todeschini è l'ideatore del progetto e presidente di questa associazione. Come suggerisce il nome, Rob the Mat è una delle, diciamo, delle utenze, anche se il termine utenza proprio non mi piace, è quella del disagio mentale e psichiatrica. E quindi persone che magari hanno passato gli ultimi 10-15 anni in strutture, in comunità psichiatriche o comunque in strutture di questo tipo qua. Non è l'unica difficoltà che trattiamo, trattiamo con... abbiamo ragazzi che vengono da percorsi post-carcerari, post-tossicofilie, e persone che sono richiedenti asilo, asilanti o comunque migranti in fuga da situazioni che tutti conosciamo. E come arrivano da voi? Cioè, qual è il percorso? Chi vi segnala o sono loro che vengono direttamente? No, vabbè, in questi anni abbiamo attuato delle collaborazioni ovviamente con istituzioni, altre associazioni, Onlus, che già operavano comunque con tutte queste situazioni, e quindi pian pianino abbiamo comunque affinato un lavoro assieme, e quindi cioè, è anche successo che più persone fossero segnalate da una singola associazione o fondazione, perché ci eravamo già trovati a trattare con loro. E tu perché sei lo chef, nel senso, com'è il tuo percorso? Ma io sono laureato in storia, quindi cioè non è proprio il percorso tradizionale dello chef. E sono diventato chef per andare avanti, permettermi di pagare gli studi, avere qualche vizio, eccetera. E poi diciamo che è diventato il mio lavoro. Sono sempre stato impegnato nel sociale, quindi se non avessi avuto uno sfogo nel sociale facendo solo ristorazione, probabilmente avrei anche smesso di fare ristorazione. Quindi Rob the Mat è stato veramente un compimento comunque di più passioni. Sei stato uno dei fondatori? Sì. In quanti avete fondato questo? Allora, l'idea è che io lavoravo già appunto con le utenze psichiatriche e facevo solo dei corsi di cucina, e vedendoli che reagivano in maniera fantastica quando potevano avere un progetto loro, ed essere autonomi, quindi trovare anche un'autonomia nelle piccole cose che facevano, e vedevo una reazione incredibile in queste persone, mi sono detto: ma perché non fare solo formazione, ma invece aprire un posto dove poi dopo la formazione quel posto sia vissuto da loro, sia animato da loro. E quindi più o meno ho avuto la fortuna di avere due carissimi amici che hanno abbracciato pienamente il progetto, e così è nato, non senza difficoltà, Rob the Mat. Perché la cucina è salvifica per chi ha un momento di difficoltà? Perché intanto è un momento in cui puoi creare con le tue poche risorse che hai, con le tue mani, con le poche nozioni che qualcuno ti ha dato, e vedere qualcosa che nasce, che può essere una piccola ricetta, ma può essere anche poi fare un grande catering di matrimonio. E quindi passo dopo passo, chi ha avuto comunque momenti di difficoltà, secondo me lavorare in una brigata come quella di Rob the Mat, dove la differenza la fa da padrona, non è lo spauracchio, e noi andiamo proprio a sottolineare le differenze, che tante differenze fanno poi un insieme che è molto più bello. E questa è la nostra, diciamo, filosofia, la nostra politica, e la si vede sul campo, perché trovi persone che magari sono fatte 30 anni di carcere insieme a qualcuno che sta per affogare nel Mediterraneo, e chi invece sente ancora probabilmente le voci nella sua testa. Il cibo che si mangia qui è biologico, filiera corta e un ambiente molto accogliente, come ben spiega Carlos. Non ho mai trovato una situazione lavorativa, diciamo, un'atmosfera lavorativa come questa. Un ambiente familiare, ti sembra veramente di venire a trovare i tuoi amici. C'è sicuramente il lavoro che è pesante, come tutti, però mi trovo molto bene. Insegno cucina inserimenti lavorativi, che noi chiamiamo, che realmente sono persone che vengono da diverse situazioni di disagio, non lo so, problemi psichiatrici, povertà, non so, l'immigrato, diversi tipi di persone che vengono appunto con diversi problemi. Noi le prendiamo, le mettiamo in cucina, perlomeno la mia parte cucina, io li tengo, li insegno, diciamo, le basi della cucina, e stanno con me un paio di mesi, tre mesi, poi si fa il giro e sempre sono in costante movimento queste ragazze. Hai delle storie di ragazzi che hai seguito tu che adesso lavorano da altre parti, con cui sei in contatto? Sì. Oggi per esempio adesso vado a vedere un ragazzo che ha lavorato qua, che ha fatto, lui è un ragazzo senegalese appunto, che è venuto da noi a fare il percorso di inserimento, e so che ha trovato un lavoro in un ristorante, ha un lavoro fisso, e che già per lui era tantissimo. Veniva con un po' di problemi, lui era dei problemi soprattutto di depressione, e non trovava un posto, diciamo, qua, non so se aveva i documenti, comunque con una difficoltà abbastanza chiara. E invece lui adesso è contento, lavora, e io credo che quella è la soddisfazione che più ci portiamo a casa. E non solo lui, abbiamo altre esperienze di persone che trovano lavoro soprattutto nell'ambito della ristorazione. Chi abita nel quartiere? In questo posto viene anche per prendersi cura del giardino. Il concetto è aprirsi il più possibile. Margherita ed Eva hanno 16 anni. Cosa state facendo? Stiamo mettendo a posto il bar. E stiamo pulendo tutto. Tu sei una volontaria? Sì, sono anche una volontaria, stiamo pulendo tutte le bottiglie perché sono state ovviamente ferme durante la quarantena, quindi stiamo ripulendo e rispolverando tutto. Ma poi voi lavorate anche qui nel bar? No, siamo qua soltanto durante questo periodo per aiutare, ma non lavoriamo qua. Siete studentesse? Sì, entrambe, facciamo io il liceo classico e lei il liceo scientifico. Quanti anni hai? 16. 16 anche io. Come mai avete deciso di venire qui a 16 anni anziché stare a casa davanti al computer o in giro? Perché noi abitiamo qua nel quartiere, conosciamo Rob De Matt perché appunto viviamo qua, e alla fine, cioè dopo 2 mesi in quarantena, anche stare a casa non ce la facevamo più, e quindi appena abbiamo visto che potevamo fare qualcosa qua siamo venute, abbiamo chiesto e loro ci hanno spiegato tutto, quindi poi ci siamo registrate come volontarie. Cosa ti piace dello stare qui? Durante questo momento dove molte cose sono ferme, noi stiamo facendo qualcosa e portando avanti una parte della città, e quindi a me personalmente, ma credo anche a Eva, piace fare qualcosa che può aiutare persone che in questo momento sono in difficoltà, come preparare dei pasti che vengono dati alle persone che in questo momento sono in crisi. Nel corso del lockdown questo posto è diventato una base per far partire assistenza per i più fragili, come ben spiega Francesco Purpura. Noi, diciamo, i primi giorni appena è stato annunciato il lockdown abbiamo chiuso ed eravamo molto preoccupati. Il lockdown comunque ci ha messo in una condizione di non sapere se saremmo riusciti e se saremmo in grado di riaprire, perché consegna una situazione debitoria enorme dal punto di vista economico, la responsabilità di contratti di persone che vengono messe in cassa integrazione, quindi è stata una cosa molto, molto brutta e molto difficile. Era giusto farlo perché si trattava di tutelare la salute delle persone, quindi per carità, giusto così. Però abbiamo passato i giorni a dirci, boh, ce la faremo a riprendere. Poi sono nate queste esperienze, in particolare delle brigate di solidarietà nell'emergenza, che hanno iniziato in giro per la città ad aiutare gli altri. è un po' della nostra vocazione, per cui abbiamo detto facciamolo anche noi. E quindi poi abbiamo passato tutta la fase successiva a lavorare come più di prima, ovviamente è gratis, e quindi il cibo che viene fornito a chi ne ha bisogno è frutto di donazioni, il lavoro nostro nel cucinarlo, nel consegnarlo è volontario, non entra un euro, però entra tanto dal punto di vista della carica emotiva e della, dell'appoggio che le persone venendo qua ci danno e che ci fa sentire e affrontare anche la riapertura con più coraggio e con una condizione emotiva più di maggiore forza. Da questo giardino partono centinaia di pacchi alimentari, ancora oggi che il lockdown è finito. Io sono Federico De Ambrosis e coordino una delle sottobrigate della Brigata Elena Modotti, in particolare la sottobrigata che è basata qui a Robdemat. La Brigata Elena Modotti è una delle 10 brigate che si è costituita nell'immediatezza della crisi sanitaria. 10 brigate perché sono 9 brigate, cioè una per ciascuna zona di Milano, e la decima è la Brigata Basaglia, che invece offrono un supporto psicologico. La Brigata Elena Modotti in questo momento ha circa 470 volontari e porta principalmente pacchi alimentari, ma non solo, in zona 2, zona 3, zona 9. Portiamo anche cartoleria per i bambini soprattutto, portiamo guanti, mascherine, dispositivi di protezione individuale, e siamo riusciti anche a fare una consegna di tablet dentro alcuni caseggiati popolari. Per alcune settimane circa 400 pacchi alimentari al giorno, solo noi come Elena Modotti, che vuol dire quasi 3.000 a settimana. Il dato è che quello che si è riusciti a concludere come accordi per raccogliere le derrate alimentari era ampiamente insufficiente. Siamo trovati a movimentare 15-20 tonnellate di cibo a settimana, di queste soltanto 3-4-5 arrivavano da contratti, mentre tutto il resto è stato dato demandato completamente all'auto-organizzazione e alla buona volontà dei milanesi, che nei loro palazzi si sono trovati le ceste alimentari, piuttosto che fuori dai supermercati hanno visto i carrelli degli studenti, fondamentalmente, che chiedevano un aiuto. È chiaro che dopo 2 mesi di crisi subentrano dei problemi. Anche la persona più generosa la prima volta fa una buona spesa, la seconda volta una spesa media, la terza una piccola spesa, la quarta magari vicino al 20 del mese, quindi vicino agli stipendi, la raccolta alimentare rallenta leggermente. Ma adesso qual è la situazione? Cioè, la stessa di un mese fa, o ti sembra migliorata o addirittura peggiorata? A livello numerico la situazione all'incirca è simile, perché all'inizio abbiamo avuto un grosso impatto di richieste di aiuto proveniente dalla comunità filippina, soprattutto parliamo di badanti, colf. Adesso quello che vediamo è che sta cambiando un pochino la composizione sociale, nel senso che magari abbiamo meno soggetto migrante, le colf, magari piano piano quelle persone che tornano al lavoro sono tornate a fare qualche lavoretto settimanale, hanno preso qualche lira, qualche stipendio e sono riuscite ad andare a fare la spesa sostanzialmente. Sta emergendo una nuova povertà, nel senso che percentualmente, anche dalle analisi che facciamo sui nostri database, vediamo che la percentuale di famiglie italiane, ad esempio, che sta facendo richiesta, oppure persone anziane, oppure diciamo soggetti non del sommerso, se vogliamo definire così, stanno aumentando di molto nella percentuale dei nostri interventi. Noi abbiamo messo una pezza, nel senso che quello che abbiamo fatto, crediamo sinceramente che sia stato straordinario, perché nel momento in cui siamo riusciti, soltanto noi che siamo una delle 9 brigate, a fare in modo che 3.000 famiglie a settimana, quindi forse 10.000 persone a settimana, avessero qualcosa nel piatto, tutto l'intervento su base volontaria, quindi persone che hanno ritagliato mezza giornata, giornata intera al loro tempo per aiutare persone che non avevo mai visto, non so se ha tanti precedenti. Diario termina qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.